finire il cielo, magari dove dormi tu, e respirare sul tuo seno, amo, amo. Sbadiglia piano una finestra, tra le persiane un po' di blu.